Capitolo 1 di Mattinate Napoletane. Questa è una registrazione LibriVox. Tutte le registrazioni LibriVox appartengono al dominio pubblico. Per maggiori informazioni o per fare del volontariato, si prega di visitare LibriVox.org. Registrato da Davide Lequile. Mattinate Napoletane di Salvatore Di Giacomo. Capitolo 1. Vulite o Vasilla? Napoli. Marzo 1885. Carissimo Paolo, io non ho qui a Napoli con chi sfogare certe mie piccole pene, che mi pare abbiano tutta la buona intenzione di rimanersene meco alloggiate, in questa cameretta mia solitaria. Non ho stretto amicizia con nessuno, apposta per non dare a nessuno il modo di subitamente allontanarsi da me per qualche improvvisa scappatella che mi facesse il morboso carattere mio. Vivo solo e tranquillo in questa mia stanza, dal quale esco a prima ora di mattina per trovarmi all'istituto e un po' a sera col tempo buono per avvelenarmi con una chicchera di caffè e con un sigaro napoletano. Il caffè, per acquaccia nera che sia, mi permette di studiare e di leggere fino a notte avanzata, e ciò mi fa bene, lasciandomi dimenticare, sviando il pensiero e interessandomi a qualche cosa fuori di me stesso. Da qualche giorno però il mio umore è ridiventato nero, bel tempo perverso che mette ovunque un silenzio di malinconia e nelle povere anime sofferenti uno sgomento indefinibile, una lunga e nervosa tristezza che a momenti si vorrebbe mutare in tante calde lacrime piante tacitamente. La faccia nelle mani, mentre come ora che ti scrivo seguita la pioggia a borbottare nelle grondaie e lontano lontano muore un tintinnio di campanelle vaganti. Ora io mi sono solo a solo rincantucciato presso la mia finestra e guardo per le vetrate nella via deserta ove sono tutte chiuse le botteghe e tacite e frettolosi rari passanti. Il cielo è grigio come la veste di una monacella di questua. Si leva da una terrazza di faccia a me e vi si disegna a carbonella il palo del telegrafo, irto di capovolti interrogativi che irraggiano a destra e a manca fili neri, i quali si vanno lontanamente a perge. Sta in fondo Sant'Elmo, vestito a piede delle mura in un cupo verde alimentato dalle piogge e dall'umidità, sfarchiato da tanti buchi neri in fila. È una fila d'uomini ritti, immobili, par la cresta merlettata del castello, dietro il quale impallidisce freddamente il cielo, come negli antichi acquerelli dei trittici olandesi. Ebbene, Paolo mio, dopo questo io non ho che o troppo poco ancora, o tante, tante cose a dirti. Ancora parlarti di me, delle mie incoerenze, dei contrasti che s'agitano e s'accapigliano in quest'anima mia inquieta, delle aspirazioni, dei sogni ai quali tengo dietro col cuore tremante. Non voglio, quest'altra stanzetta dove tu seguiti in un paese lontano dal mio, a innamorarti delle farfalle e degli scarabei verdi riscintillanti, a raccogliere pazientemente ed ordinare famiglie di crittogame e di fanerogame tra i fascicoli di carta, mio buon Linneo. Calmo e tranquillo, quest'altra stanzetta è ancora troppo piena di me. Ho le tue piante, i tuoi scarabei, non mi sentono più, non più la vecchia spinetta accanto a loro, le semplici aree della nostra montagna, nelle beate dolcissime sere lunare. Paolo mio, caro, vuoi raccontare una storiella a questa tua silenziosa famiglia? Te la mando da Napoli, da questo strano cuore d'Italia che patisce, se lo si considera bene, di tutti i mali cardiaci, dell'aritmia, dell'iperstasia, dei ribollimenti subitanei e delle lunghe paci silenziose, da battiti lenti, quasi malati. Dunque, ascolta, la storiella potrebbe pure essere vera. 3 giorni dopo ho arrivato, col mio bravo cassettino ad armacollo e col mazzo di pennelli tra mani, infilavo entrandovi da Borgo Loreto, il lungo lovicolo gigante, per quale si spunta la Marinella. Tu non sei stato a Napoli e non puoi sapere che siano questi vicoli di Borgo Loreto, tupaie di marinari miserabili, vestiti di lana doppia, puzzolenti, neri come il carbone. Tutta la vita grama di questi lavoratori del mare s'agita ripullulando in case buie, profonde, umide. Un triste e schifoso spettacolo, poco lontano dall'azzurro divino spettacolo del mare, innanzi al quale la mia mano freme sulla tavolozza. Io dunque, per andare a dipingere alla riva, passavo per il vicolo gigante, guardando qua e là curiosamente, persino fermandomi a contemplare, con meraviglia di forestiero e curiosità d'artista, qualche interno pittorico pieno d'ombre e di mistero. Fu in una di queste fermate che una donna sui 30 anni, piccola, bionda come tutte le figlie del mare, mi chiamò sulla soglia di casa sua, nella via, e mi chiese sorridendo se volessi disegnarla. Rimasi sorpreso. Avevano dunque capito questi del vicolo giganti che misteriaccio facevo. Io vi disegnerò, bella bionda, le risposi. Ma com'è che sapete che io disegno? Ella mi disse che passavano sempre per quella via dei giovanotti, i quali andavano a disegnare le barchette e il mare, e i pescatori. Ognuno di loro portava sotto il braccio un cassettino come il mio, nelle mani i pennelli e in testa un cappelluccio a cencio, come il mio. Ora i disegnatori li conoscevano subito. Sta bene, vuol dire che un bel giorno ripasso e vi disegno. Quando? Ma più presto possibile, bella bionda. Io non mi chiamo bella bionda, mi chiamo Fortunata. Volete passare lunedì? Passerò lunedì. A lunedì, di buon'ora, mi trovai a vicolo gigante. Fortunata, ritta sulla soglia di casa sua, lavorava all'uncinetto sorridendo. Mi aveva visto da lontano. Dunque, siamo pronti? Entrate. La seguì in una piccola stanza. Dal pavimento tutto sconnesso e sporco. Attorno, appesi ai muri, immagini di santi, olivo benedetto, nasse di pescatore, corbelli di paglia, piccole bombole per polipi. Una tavola, un lettuccio, 2 o 3 seggiole zoppicanti. Sentite, disse lei, appoggiandosi col dosso alla tavola e giocando col gomitolo. Io vi volevo chiedere un favore. E come io la interrogavo con gli occhi, non sapendo che cosa mi stesse per capitare addosso, ella soggiunse prestamente. Ebbene, ecco, io non volevo essere disegnata, proprio io, perdonatemi. E chi? Ella volse lo sguardo al lettuccio, confusa. Allora m'accorsi che nel lettuccio c'era qualche cosa. Un piccino, 2 grandi occhi azzurri mi guardavano spaventati, una testina bionda, come quella di Fortunata, si levava dal capezzale, intenta. Il piccino, mormorò lei. Ma come mi accostavo al lettuccio, il piccino fu preso da gran terrore. Ricacciò il capo sotto le coltre e si mise a urlare. «È malato», disse Fortunata, «ha una gran febbre da 5 giorni. E mio figlio Andreuccio. Andreu, belle mamma, te vuoi far disegnare? Il signore, lo zio, ti farà il ritratto e mamma te lo metterà qui, appeso, di faccia a te. E quando tata verrà e vedrà il ritratto di Andreuccio dirà «Ah, questo è Andreuccio bello, tale e quale». Il piccino ascoltava, con gli occhi lucenti di febbre, senza mostrare di decidersi. «Guarda», gli dissi mostrandogli, «un soldo in punta di dita. Se sarai buono, io ti darò questo soldo». Sorrise e guardò la madre, che sorrideva pure lei, incitandolo. Finalmente accettò, nascondendo il soldo e la manina, nella quale lo aveva lasciato cadere sotto la coltra. Fortunata gli acconciò 2 cuscini dietro la testa, si mise a sedere a piedi sul letto e ricominciò il suo lavoro di uncinetto, seguendo curiosamente i miei preparativi. Valeva la pena di interessarmi a questo fanciullo. Nella luce fredda era una testa d'un sol tono di colore, senza rossi, senza rilievo accentuato, pallida, caratteristica. Grandi occhi azzurro scuro lucevano tra i riccioli. Della piccola bocca, puerilmente, il labbro inferiore saliva sull'altro in una smorfietta sdegnosa. «Hai tu mai visto qualche pallido bambino malaticcio dipinto da Rubens?» Così lui. Pareva che si fosse messo a pensare a cose molto serie, nessuna curiosità. Lo sguardo di lui scendeva lentamente da lunghe contemplazioni del soffitto al volto della madre e vi si posava. Era Fortunata che pativa di curiosità. A ogni 5 minuti si levava per venire a guardare di sopra le mie spalle, per esclamare «Quando si vedrà qualche cosa? Ci vuole ancora molto tempo! Lo fate ridendo! Verrà bene!» Dopo la prima seduta, il piccino volle vedere un po' anche lui, e si contemplò abbozzato appena, senza meraviglia di non riconoscersi, come cosciente dello sviluppo che poi avrebbe avuto il dipinto. «Lo lascio qui», disse Fortunata, «mettetelo in un cantuccio, con la faccia a muro, e badate di non toccarlo». «Quando tornate?» «Domani». «Certamente, certamente». «Addio, piccino». E mi chinai su di lui per fargli un bacio. Egli mi mise la mano sulla faccia, respingendola. «Che hai?» gli disse Fortunata. «Su, fagli un bacetto». E aggiunse sottovoce: «Dategli un soldo». «Toh, eccoti un soldo. Ora mi fai un bacio? Le sue piccole labbra ferbecitanti toccarono lievemente le mie. Il secondo soldo scomparve con la manina in cui era stretto, sotto le coltre. «Ah, signorino», mi disse Fortunata, presso la porta, «il piccino è molto malato, dice il medico che l'ha visitato, che gli ha male i polmoni. Il primo figlio, signorino mio», e le lacrime lo lucevano agli occhi, «è una sventura grande. Avete visto com'è serio? Via, fatevi cuore, è bambino e guarirà. È il suo babbo, è vero? È andato via, è marinaio, è partito per pescare il corallo, con tutta la paranza, e torna di qui a un mese, signorino mio. Il piccino va pazzo, se sapeste». La lasciai così, che piangeva silenziosamente sul limitare della casuccia, con le braccia penzoloni, gli occhi a terra. Veramente quel dolore di giovane madre mi faceva male. Pensai a lei, al piccino, per tutta la via. Pensai che sarebbe stato molto meglio se non avessi conosciuto nessuno di tutti e due. Tornato alle dimane con una bella giornata di sole, ricominciai il mio lavoro. Il modello mi si dimostrava più amico, arrivava perfino a sorridermi. Quando rimisi la tela appoggiata al muro e stavo per licenziarmi, lui mi fece con la sottile vocina: «Volito vasilla?» Io gli detti un altro soldino. Questa volta ebbi due piccoli baci su tutte e due le guance. Mi volsi uscendo. Lui mi salutava con la mano, levando il braccio nudo, sorridendomi. «Ah, questo piccino malato, questo piccolo piccino pallido pallido, questa mia novella amicizia puerile. Tutto il giorno sono rimasto a pensarvi». Dopo una settimana avevo finito. Ero contento, il ritratto mi era venuto somigliante, non pure quanto assai giusto di colore e di intonazione. Il bianco dei cuscini col sole. Ma via, io non mi voglio fare delle lodi. Ero contento, ecco, ero contento della mia settimana. In tutti questi giorni il mio piccolo amico s'era più stretto a me, e con tutte le ingenue espansioni infantili con le quali la fanciullezza trattiene una mano carezzante e un dolce amore pietoso, ogni giorno, all'uscire dalla stanzetta piena di sole, fingevo di scordarmi della sua offerta, per sentire subitamente la vocina di lui balbettante: «Volito vasilla? Volito vasilla?» Gli aveva promesso di recarmi a vederlo 2-3 volte nella settimana. Lo aveva promesso anche a Fortunata. Cominciato novembre, dovetti abbandonare i miei studi di mare e il vicolo gigante. Questa Napoli ha un clima variabilissimo, una bella giornata calda, soleggiata, e poi, al giorno appresso, acqua, vento e tempesta. A novembre pigliai una mezza bronchite che mi confinò nel letto per 12 giorni. Pioveva, pioveva sempre. Una grande malinconia, caro Paolo. Dei tristi giorni, e il padrone di casa che mi spediva messaggi, e tutte le mie pratiche e le mie speranze quasi rovinate. Nei primi giorni di dicembre, in un sabato, il tempo era bello. Uscii, tornai a vicolo gigante tutto pieno di centinaia di femmine che aspettavano l'estrazione dei numeri del lotto, e ne discutevano a gran voce. Cercai Fortunata, era lì in casa a lavorare all'uncinetto, accosto alla tavola sulla quale si raffreddava la minestra in un piatto. Quando mi vide si levò pallidissima, levò le braccia in atto disperato e si mise a piangere: «Signor, è morto, è morto!» Ti giuro, cominciai a piangere anch'io come un fanciullo. Era ricaduto a sedere, aveva appoggiate le braccia sulla tavola e tra le braccia nascondeva il volto singhiozzando. Io ero rimasto in piedi, dinanzi a lei, muto, non sapevo che dirle. Fortunata levò la testa, mi guardò con occhi così spauriti che parve fossi io che le portassi la male notizia. Il ritratto di piccino era a capo al letto, tra il ramo di olivo e la palma benedetta. Accompagnandomi fino alla porta, Fortunata mormorò tra i singhiozzi. Mi disse che voleva vedervi. Dimandava sempre del pittore. I singhiozzi la soffocavano. Me ne andai. Per via camminavo come intontito. Il piccino, benedetto piccino, il piccolo amico mi seguiva, la sua vocetta tenera, come ora mi parla mentre io scrivo di lui a te, perché in questa malinconica mattina di marzo egli è qui, accosto a me, e nel silenzio della mia cameretta egli mi ripete ancora dolcemente, con un balbettio d'angiolo: «Volito vasilla, volito vasilla». Fine del capitolo 1, registrato da Davide Lequile.